Pinto Science, ben detto, è una manifestazione di divulgazione scientifica che sarà a Bologna in tre differenti pub: la birreria popolare, il Santo Bevitore e le scuderie, dal 20 al 22, quindi 20, 21, 22 maggio. E la nostra idea è quella di portare la nostra attività da scienziati all'interno dei pub, all'interno di questi luoghi che sono i luoghi per eccellenza informali, dove si riesce a comunicare e a scambiarsi le migliori idee. Sono tre i pub dedicati a questa manifestazione, con anche tre argomenti diversi: chimica, e tu sei un chimico ricercatore del Chamichan, poi si parlerà di fisica in un altro luogo, e qui alle scuderie il tema principale sarà l'ambiente. Puoi darci più approfondimenti? Esatto, le tematiche che tratteremo sono tematiche di divulgazione, quindi aperte al grande pubblico, che vanno dalla lotta contro il cancro fino ad arrivare ai cambiamenti climatici. Diciamo, la birreria popolare sarà la serata dedicata alla chimica, dove parleremo di plastiche, di nanomateriali, di nanotecnologie, e mentre invece al Santo Bevitore vi sarà la serata dedicata alla fisica, dove si parlerà di energia nucleare, quindi come l'energia nucleare può cambiare, può rivoluzionare il nostro futuro, di neutrini e di cambiamenti climatici. Infine alle scuderie abbiamo la serata dedicata alla biologia, alla paleontologia. Tratteremo differenti tematiche a partire dal passato, quindi dai dinosauri, fino al futuro e che cosa ci aspetta nel futuro dal punto di vista paleontologo. Mi sembra una manifestazione molto interessante, e anche le location sono interessanti per dare l'opportunità alla gente di partecipare. In Sansa Bolognese la chiameremo Scienze e Birrette. Esatto, un bellissimo lo riutilizzeremo. Scienze e Birrette, sì. Quello che vogliamo fare è toglierci i nostri camici, uscire dai nostri laboratori e tentare di spiegare al pubblico, ai nostri studenti, alla città di Bologna, quello che facciamo quotidianamente e come la ricerca non sia soltanto una cosa da manconi, una tematica ristretta, ma come coinvolga la vita di ognuno di noi. Vi aspettiamo il 20, 21, 22 maggio a Pint of Science, alla birreria popolare, il Santo Bevitore e la scuderia.